Vieni al Tour de France, vieni insieme a me. Un giro come questo al mondo non ce n'è. C'è il Mont Ventoux, l'Aubisque e il Tourmalet, dove ha vinto Bartali e Louis-Jean Bobin. Buongiorno a tutti, bentornati a Radio Bidon, la vostra radio di fiducia ormai dal Tour de France. Ci ha introdotto come ogni giorno la voce di Dino Zandegu, il cantore del Tour de France, e oggi siamo in tre, connessi come sempre grazie alle magie dell'internet. Io sono Filippo Cauz, come sempre, con me c'è Leonardo Piccione. Buongiorno, ciao. Buongiorno. Buongiorno, e poi abbiamo anche oggi un ospite collegato con noi, un ospite che ospitiamo, scusate la ripetizione, con grande piacere, perché è una delle nostre preferiti tra le nuove leve dei narratori del ciclismo italiano. Si chiama Valerio Bianco, lo conoscerete con un sacco di altri ruoli e nomi. Lo salutiamo, magari alcuni ce li presenta lui, poi glieli chiediamo. Ciao Valerio. Ciao a tutti gli ascoltatori. Dove sei? Adesso sono in Spagna, perché sto passando del tempo qua in Spagna per motivi privati, però a breve sarò in Italia per il Trofeo Matteotti, perché lavoro con la Villiers Triestina Southeast e nello stesso tempo seguo il tour per Road to Sport e per Ciclismo 2014, che è il nome con cui mi conoscono in molti. Via Twitter, ovviamente. Via Twitter, sì, via Twitter e anche un pochino via Facebook, però soprattutto via Twitter. Credo che ad oggi in Italia non ci siano cronache più puntuali e precise a 360 gradi come quelle di Ciclismo 2014 su Twitter, per cui è veramente un servizio per la società. Grazie. Io quando ho iniziato ho pensato proprio a questo, al fatto che non ci fosse nessuno che raccontasse le corse in diretta, soprattutto per magari qualcuno quando stai lavorando e non hai tempo di guardare la televisione, di accendere la radio, guardi un secondo sullo smartphone e sai cosa succede. Ho pensato a questo qui. Mi ero fatto male giocando a calcetto e nella convalescenza ho detto va, iniziamo questa cosa qua, che avevo già in testa da qualche tempo. Avevo tanto tempo libero, ho iniziato questa avventura. È benedetto calcetto allora, no? Diciamo sì, noi. Sì, benedetto calcetto. Senti, tu invece per la Villiers Triestina Southeast sei addetto stampa, giusto? Sì, sono addetto stampa, gestisco le relazioni con gli sponsor, vado a molte gare, vado a molte corse e anche lì gestisco i social della squadra, i comunicati stampa, tutto quello che riguarda la comunicazione. Senti, per metterti subito a tuo agio ti faccio una domanda che riguarda la dichiarazione che noi abbiamo raccolto da parte di un'altra nuova leva del giornalismo sportivo italiano, che è Gianni Mura, che ci ha detto che non ama particolarmente quelli che fanno il tuo ruolo, perché dice che si mettono in mezzo in un certo senso nel rapporto tra il narratore e il ciclista. Tu come la vedi questa storia qui? È vero che è peggiorato il racconto del ciclismo da quando ci sono uffici stampa, addetti stampa e via dicendo? Ma in un certo senso sì, diciamo che l'addetto stampa è dalle corse praticamente un factotum, cioè non è solo l'addetto stampa, ma quella persona che se serve deve andare all'aeroporto a prendere qualche corridore. Ovviamente nelle squadre più grandi l'addetto stampa sì, si sostituisce spesso alle voci dei corridori, magari detta un po' più la linea. In una squadra un po' più piccola come la nostra i corridori sono un po' più liberi di dire quello che vogliono, pensare solo a Pozzato o alle sue dichiarazioni. Non è sicuramente nelle squadre più grandi c'è molto più controllo e i corridori vengono tenuti più chiaro, certo. Quindi quando vorremmo fare una super intervista a Euger Zupa passiamo da te e ci dai un lascia passare diretto, va bene? Sì, certo. Poi Gert, come lo chiamiamo noi, è disponibilissimo, quindi è uno dei nostri preferiti da sempre. Stavo pensando anch'io a questa cosa degli addetti stampa, che sicuramente hanno un ruolo che non sempre è il ruolo che ci piace, non osiamo smentire Mura, non sia mai, ma stavo pensando che però c'è anche una parte di utilità abbastanza consistente, e su questo era una domanda che da sempre mi balena in testa quando leggo le cronache di Valerio, ovvero da dove cazzo le prendi tutte le informazioni sulle corse? Quando stai dentro in corsa è facile, c'è Radio Corsa, ma poi c'è anche il fatto di parlare la mattina con i colleghi, di scambiare anche delle parole con i ciclisti. Sì, ma sulle cronache? E sulle cronache, quando sei là, comunque le sai le cose, c'è la Radio Corsa, c'è... ogni tanto magari quando sono in ammiraglia addirittura le vedo proprio le cose. No, ci mancherebbe, però io leggo un sacco di tue cronache anche di corse a cui tu non partecipi. E tante notizie dal tuo account che non trovo da nessun'altra parte, tu da qualche parte le troverai. Innanzitutto non lo gestisco da solo l'account, quindi c'è qualcuno che magari segue la corsa sul Cycling Fans o sul Cycling Hub. E poi mi baso anche informazioni che vengono da siti stranieri o da altri account stranieri. Ok, allora seconda domanda, poi andiamo finalmente al tour. Dove lo trovi il tempo per fare tutte queste cose? Questa è una bella domanda. Questa è una bella domanda, sì, non lo so neanch'io. Dico, ogni tanto mi faccio aiutare anche da qualche altra persona. Poi, quando sei in corsa il tempo lo trovi, stai lì. Quando sei a casa è già più difficile. È molto più facile lavorare quando sei in corsa che quando sei a casa. Chiaramente quando sei in corsa... nel dopo corsa non è che puoi stare tanto a twittare o cose, perché comunque stai lavorando, però durante la corsa sì che si riesce a lavorare con calma. Allora andiamo in corsa anche noi, andiamo su quella corsetta che stiamo seguendo in questo periodo, che è il Tour de France. Ieri abbiamo visto una tappa che penso che a tutta la redazione di Bidon, ma se parlo almeno personalmente, ha abbastanza emozionato. D'altronde, quando ti trovi in fuga due ragazzetti come Greg Van Avermaet e Thomas De Gendt, ovvero due che ad attaccare e ad animare la corsa hanno votato la loro vita, è difficile restare delusi. E la fuga è stata lunghissima, ci si aspettava, almeno io mi aspettavo davanti, che fosse un corridore più avvezzo alle pendenze come De Gendt ad andare a conquistare la vittoria, e invece no, è stata una vittoria sorprendente di Van Avermaet, che oltre a mettersi in tasca la tappa per il secondo anno di fila, vincere una tappa al Tour, si è messo addosso una maglia gialla, di cui poi parleremo un attimo più approfonditamente. Dietro ogni tanto hanno passato la linea alle telecamere sul gruppo, dove personalmente ho visto un po' pochino, non so come vi siete vissuti tutti voi la tappa di ieri, ma a parte un forcing della Movistar, quello sì bello cattivo, e un po' di crisi di qualcuno che o non aveva le gambe o non aveva le spalle o aveva deciso che le gambe era meglio salvaguardarle per obiettivi futuri, senza pensare che siamo al Tour de France, per il resto si è vista un po' la classica calma, diciamo, da attesa delle tappe di montagna vere. Beh sì, sono molto d'accordo con quello che hai detto, è stata una tappa molto controllata in gruppo, secondo me, anche se abbiamo iniziato, come hai detto, a depennare qualche nome, soprattutto dalla potenziale top 10. E Van Avermaet ha fatto una vera e propria impresa, ha corso veramente bene. Io sono rimasto molto deluso personalmente da ciò che ha fatto Maika, perché l'ho visto veramente, non ho capito che tipo di corsa volesse fare. Non è stato utile alla sua squadra e non è stato neanche utile a se stesso, perché una volta che il suo distacco dalla testa della corsa era sopra i 3 minuti, la cosa più logica e sensata da fare sarebbe stata rialzarsi e aspettare il gruppo, soprattutto considerando il fatto che Contador, suo capitano, non fosse in grande condizione. Sulla Tinkoff bisognerebbe fare un discorso a parte, perché poi dopo anche Kreuziger ha lasciato Contador solo sulla salita finale, quindi veramente c'è un po' di confusione, no? Sì, ma poi c'è anche la foto che adesso gira di Kreuziger che si volta durante l'ultimo chilometro, si volta, vede il Contador e non... cioè va avanti per i fatti suoi. Sembrava proprio che la Tinkoff corressero ognuno per i cavoli suoi, sinceramente. Sembrava che Maika facesse il gregario Ouzarski, sembrava più che altro, più che correre per la Tinkoff stesse correndo per Ouzarski. Io non vorrei anticipare il nostro invadente di Francesco Bozzi, ma io ho qualche dubbio che Oleg Tinkoff abbia preso la gestione delle borracce, quindi gli sia caduta un po' di vodka all'interno, ce l'ho in questo Tour de France, perché sto vedendo delle scene che da una squadra di questo livello non mi aspettavo. Sì, in effetti sì, comunque... Nulla da dire riguardo Van Avermaet, ha fatto una grande impresa, soprattutto considerando che quest'anno ha vinto la Tirreno Adriatico, però al Fiandre ha abbandonato il Fiandre in lacrime, quindi è stata una rivincita sua e una vittoria che si è meritato. Però È meritato veramente. non tutti sono soddisfatti e contenti della vittoria di Van Avermaet, ve lo devo dire, perché io girando un po' su internet ho trovato in mezzo a una fantastica foto di Geschke che si fa fare la barba dal barbiere del Tour e sembra un quadro realista, in mezzo a Rui Costa che provoca Geraint Thomas sulla partita di ieri dell'Europeo, il Portogallo è andato in finale battendo il Galles. Ho trovato il nostro amico Vegard Breen della Fortuneo che si lamenta scherzosamente con Van Avermaet perché dice: "Maledetto Greg, per colpa tua abbiamo dovuto accelerare perché altrimenti in cima all'ultima salita ci avevano detto che c'erano dei tifosi norvegesi che davano i waffle ai corridori. Invece abbiamo dovuto proseguire senza fermarci perché altrimenti arrivavamo fuori tempo massimo." Quindi, secondo il nostro amico Breen, la vittoria di Van Avermaet non è stata poi così simpatica. Simpatica ieri, Hanno vinto i norvegesi, diciamo pure, a questo punto. Hanno vinto loro. Secondo voi, fino a quando la tiene la maglia Van Avermaet? Secondo me, venerdì, penso che sulla Spen ci siano le prime frullate, ci sia la Sky che fa da spremiagrumi e poi il suo capitano che fa da frullatore, quindi secondo me venerdì Van Avermaet la cede. Splendida metafora elettrodomestica, sono pienamente d'accordo con te. Secondo te, Leo? Io sono un po' più ottimista e mi spingerei almeno fino a domenica, forse, sul Tourmalet. Io credo che la tappa della Spen con solo in realtà quella salita possa essere fattibile per Van Avermaet e possa tenere la maglia gialla sabato sera e in realtà fino a domenica anche secondo me. Va bene, ce lo dirà il tempo chiaramente, o non so, ce lo dirà Valerio se già che è in Spagna andrà a fare un salto sulle strade del Tour, non so se è nei tuoi programmi. Nei miei programmi c'era di andare ad Andorra, ma la vedo abbastanza complicata, anche perché io non sono automunito. Volevo pensare di andare in autobus, ma non credo che riuscirò. Ci proverò in un last minute, ma da tifoso, andrò da addetto ai lavori, però non credo di riuscirci. C'è un ultimo tema sulla tappa di ieri che avrà bisogno di approfondimenti ben maggiori, però io un giro di pareri ve lo chiedo lo stesso. Uno che ha vinto tutte e tre le più grandi corse a tappe, che un mese fa vinceva il Giro d'Italia, ieri si è sfilato un po' per mancanza di gambe, un po' a parere mio, qui do già la mia opinione, per mancanza di voglia. Vincenzo Nibali ha detto di essere qua solo per preparare le Olimpiadi, per aiutare Aru. Aru ieri non mi risulta che lo abbia aiutato per preparare le Olimpiadi, è forse un azzardo. Voi cosa ne pensate del Nibali visto ieri? Ma la prima domanda che mi viene in mente è se effettivamente un Nibali che si stacca in una tappa come quella di ieri possa essere poi utile a Fabio Aru, perché si è detto ok, si è staccato ieri, vuol dire che era sincero, aiuterà Aru. Però se le gambe sono queste, ho dei seri dubbi che possa realmente tornare utile. Guarda, secondo me sulle Alpi andrà bene. Se lui vuole prepararsi per le Olimpiadi, io ne parlavo anche durante il giro, anche con i membri della mia squadra. E quello che lui doveva fare era rilassarsi, anche se brutto, rilassarsi nei 10 giorni, le prime 2 settimane. E poi fare una terza settimana tutta. Ovviamente non so quanto questo possa favorire poi Aru. Io quello che non ho capito da parte dell'Astana prima del tour è perché sia stato lasciato a casa invece Cataldo, che è un grande gregario, è anche qualcosa di più di un gregario, per portare magari un Fuglsang, che anche Fuglsang ieri la benzina l'ha finita abbastanza presto. Nibali, secondo me, vincerà una tappa sulle Alpi e sulle Alpi sarà molto prezioso, però anche sui Pirenei non credo che riuscirà ad aiutare Aru come si aspetta. Quindi secondo te era tutto previsto, tutto nei programmi, è una prospettiva interessante. Noi però abbiamo un insider, giusto Coutts? Abbiamo il solito e attesissimo e attendibilissimo, aggiungerei Francesco Bozzi, che oggi ci dice qualcosa proprio sulla Astana, credo. Puntata dell'invadente di oggi che invade letteralmente territori non propriamente ciclistici, per poi tornarvi ovviamente come ci compete. Infatti, come saprete, in NBA c'è aria di grande ritorno, poiché Ray Allen, dopo 2 anni di inattività, potrebbe riaccasarsi o a Golden State o a Cleveland. E analogamente, anche nel tour potrebbe esserci un ritorno col botto. Infatti, dopo la prova di ieri, un po' in colore della stana che ha lasciato solo Aru nelle ultime asperità, a differenza della Sky e della Movistar, pare che Vinokurov abbia deciso di smettere la casacca dal chiodo e rimettere in gruppo la propria pedalata, cosa che non sappiamo quanto possa far piacere ad Aru, perché Vinokurov, il gregario, non è che lo sappia fare benissimo, quindi si potrebbe trovare un doppio capitano. Una volta, voglio dire, ci siamo liberati di Nibali, avere anche Vinokurov dopo Nibali mi sembra che per Aru possa bastare. Detto ciò, non ci resta che aspettare al massimo entro il weekend della decisione. Insomma, Vino, forza nel caso, e Aru, coraggio, ne hai bisogno. Buona tappa. E ci fosse un Vinokurov nel ciclismo di oggi, in corsa probabilmente ci divertiremmo molto di più anche nelle tappe come quella che ci aspetta oggi pomeriggio, che poi magari sarà divertentissima. Io non vorrei colpirvi con il mio pessimismo. Leggo dalla ricognizione, dalla presentazione di Cicloweb, che è sempre la migliore che si trova in rete, che finalmente si arriva nel MIDI. Per quanto mi riguarda è anche un momento abbastanza di orgoglio, perché è dove ho trascorso il mio Erasmus e con ciò ho fatto il momento nostalgia. Ci sarà sicuramente una fuga abbastanza corposa per andarsi a prendere i punticini di terza e quarta categoria dei GPM per queste maglie à pois transitorie, che penso che dai prossimi giorni, dal weekend, troveranno padroni un po' più stabili. Ma Kautz, tu sai qual è, adesso intervengo così, sai qual è il numero minimo di componenti di una fuga affinché statisticamente sia proprio più probabile che arrivi la fuga? L'ho letto in giro proprio stamattina. Minimo. Il numero minimo di componenti che fa aumentare sensibilmente le probabilità di riuscita della fuga. Cioè, c'è uno 4. studio. 3,5, ci sei andato vicino. 3,5 oppure 2 più Tony Martin. Forse lì anche da solo. Da solo dice. Ad ogni modo, non me lo vedo Tony Martin in fuga oggi, No, anche no, perché il no. finale è bello pianeggiante e secondo me è molto probabile che poi sia ancora un giorno per i velocisti. Non so voi come lo vedete questo finale, ma penso che c'è anche una bella battaglia in questo inizio tour tra i velocisti, perché si è partiti con la resurrezione di Cavendish, Kittel ha fatto un numerone, c'è Coquard che sta sgomitando e prima o poi ce la farà a vincere sta tappa. Non si sono ancora visti Greipel e Kristoff, ma ci avranno voglia di vincerla anche loro, la loro bella tappa, per cui secondo me oggi se le danno tra tutti questi. Valerio, il tuo pronostico? Il mio pronostico oggi è per il gorillone, Greipel. Ah, Greipel. Sì, ci sarà una fuga sui primi strappetti, nei primi 20 chilometri, e poi penso che Greipel oggi riesca a vincere. Anche perché me lo sono giocato, quindi. Buon motivo. Io invece punterei sulla rivincita di Coccar, finalmente, ci speriamo. Ma è inutile nasconderci, tutta l'attenzione mia e credo di molti oggi sarà ancora sulle mucche che in queste tappe dominano e si prendono la scena, no? C'è poco Beh, da. speriamo anche in un po' di trattori, E finalmente. trattori se ne sono visti ai pochi, è vero finora, è vero. C'è da dire che abbiamo visto gli Hovercraft l'altro giorno e credo che da soli valgano 10 trattori. O Sì, forse no. non lo so. Comunque, adesso oggi si lascia il massiccio centrale, si va verso i Pirenei. Prima di lasciare il massiccio centrale, però, abbiamo Angelo che ci legge un passaggio storico del tour su una montagna, su un vulcano che difficilmente potevamo non salutare andando via dal massiccio centrale. Salve ragazzi, il brano che vi voglio leggere oggi è tratto dal libro Vedrai che uno arriverà di Alessandra Giardini e Giorgio Burreddu. E prima di lasciare definitivamente il massiccio centrale e dirigerci verso i Pirenei, ci sembrava giusto rendere omaggio a una salita fondamentale mitica del massiccio centrale, per l'appunto il Puy de Dôme. Il brano che stiamo per leggere ci racconta proprio durante la salita al Puy de Dôme la sfida tra Ocaña e Merckx. Per sconfiggere Merckx divenne indispensabile coalizzarsi, riunirsi in un'unica legione. A dire il vero, non occorsero troppi ditirambi per assemblare il plotone. Probabilmente bastò un consulto a voce strozzata, qualche occhiatina fugace, un cenno del capo durante la pedalata, ed ecco messo a punto il tentativo di ostracismo, il tranello, l'imboscata. Il gruppo dovette eleggere con cura il novello Robin Hood, il Wellington della bicicletta, un rappresentante, l'uomo, il solo in grado di potersi confrontare faccia a faccia con l'invincibile Merx. E scelsero Luis Ocaña, un condottiero. Ocaña sembra volerti afferrare le caviglie, e il morso di una vipera sussurrato, urlato e il ruggito del leone, e sulle larghe strade ellittiche del Puy de Dôme, quel giorno di luglio, divenne il nome stesso della congiura, Ocaña. Con la fitta nebbia a confondere la visuale e gli strapiombi sempre più alti a sollecitare prudenza, il tentativo di golpe guidato dallo spagnolo rivelò al mondo la fragilità di Merx. A 4 chilometri dalla vetta del vulcano, Ocaña se ne andò, lo lasciò sul posto e vinse la tappa senza che l'altro raggisse. Al traguardo il cannibale fu accompagnato dai fischi della gente. Che affronto! E neppure il privilegio di conservare la maglia gialla fece passare inosservate le reazioni del belga e della sua squadra, la Molteni. Nervoso, seccato e indisposto, Merx mandò giù il dispetto, meditando vendetta. Ok, un finale così poetico e storico non può che essere ben augurante per il pomeriggio di corsa che ci aspetta, per il weekend impegnativo di corsa che ci aspetta, magari anche per il ritorno del Puy de Dôme al Tour de France, che è una... Speriamo. Sì, è una montagna che in genere fa divertire. E non ci resta che augurarci buona tappa a tutti, salutarci e dare l'appuntamento come sempre a chissà quando, perché l'appuntamento con Radio Bidon non è mai fisso. L'appuntamento che invece è fisso è sui nostri social network, che sono Bidon su Facebook e Ciclismo Liquido su Twitter. Il sito bidonmagazine.org è ancora in fase di allestimento, ma a breve inizierà a prendere una cadenza un po' più vitale. Gli appuntamenti con Valerio dove sono? Beh, sono su Ciclismo 2014 durante la tappa e su Road to Sport dopo la tappa. E gli appuntamenti in corsa quando ti rivediamo in Ammiraglia? In Ammiraglia penso che per quest'anno ho già dato. L'anno prossimo penso che tornerò a fare qualche corsa, soprattutto all'estero, e quelle lì ci sono più possibilità di andare in Ammiraglia. In Italia è più difficile. Va bene, grazie Valerio. Buone vacanze, buona Spagna. E ringraziamo Angelo e Francesco che anche oggi sono stati con noi, ci hanno mandato il loro contributo dai rispettivi posti del mondo dove si trovano in questo momento. E adesso è arrivato il momento solito, no? Della canzoncina che poi ci resta in testa per tutta la giornata, almeno a me capita così, non se ne esce proprio dal cervello sta melodia. Per l'ultima puntata promettiamo che inviteremo Zandegu e la canteremo insieme in coro. Per il momento lasciamo la parola e la voce bianca e cristallina a Dino Zandegu, che con la sua sigla conclusiva ci mette verso un pomeriggio di Tour de France. Ciao a tutti. Ciao. Vieni al Tour de France, vieni insieme a me, un giro come quello al mondo non ce n'è. C'è la maglia gialla, la maglia pua, poi chi vince il Tour nella storia entrerà. Olè.